la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Quella di oggi è la storia di Dominique Corti e di suo padre e sua madre, Piero e Lucille, due medici che in 50 anni di vita in Africa e di impegno per curare i più poveri hanno trasformato un piccolo ambulatorio in Uganda in uno dei più grandi ospedali non a scopo di lucro dell'Africa equatoriale. La nostra storia inizia qui. Tutto ricevuto su un piatto d'argento, in realtà. Beh, questo è vero in parte, nel senso che poi anche lei ha fatto la sua, insomma, di strada. E perché dice così? Perché parla dei suoi genitori? È vero, perché qualunque cosa abbiamo fatto siamo nani che camminano sulle spalle dei giganti, come dice sempre mio marito. Senta, allora io partirei proprio dai suoi di giganti, sì. Suo padre e sua madre. Sì, ci racconta sì, un sì. po' come nasce, insomma, quello che poi è diventato un ospedale di veramente grande riferimento, certo, in Uganda, ma soprattutto chi erano i suoi genitori, perché forse sì, molti ascoltatori non lo sanno. Certo. Mamma e papà erano tutte e due medici, papà era un pediatra italiano e la mamma era un chirurgo pediatrico canadese, tra l'altro si era iscritta a pediatria, a chirurgia pediatrica in un periodo in cui veramente credo fosse la prima donna a iscriversi a una branca chirurgica di questo tipo a Montreal. E si erano conosciuti perché il papà stava facendo uno stage all'ospedale di Montreal dove lei faceva gli studi e il papà si ricorda proprio aver pensato: mamma mia, una bella ragazza così che si iscrive a chirurgia si rovina proprio. E invece lei aveva persistito e entrambi si erano conosciuti e si erano raccontati i propri sogni, tutte e due volevano andare a fare il medico in terra di missione, diciamo così. Però per riuscire dovevano prima concludere gli studi, allora hanno concluso gli studi, papà è andato a farsi un giro in Africa e in India per incontrare realtà dove c'erano, in Chad per esempio c'era e c'è tuttora un suo fratello gesuita missionario, in India c'era un medico che poi è diventato cognato perché ha sposato una sua sorella, insomma ha esplorato un po' di posti perché cercava un posto dove potesse sviluppare una realtà in modo un po' autonomo. E in Uganda ci è arrivato perché c'era il vescovo di Gulu, che è la cittadina vicino a dove poi esisteva questo ospedale, che era un missionario comboniano di Lecco, che gli ha detto: ma se stai cercando un ospedale, io l'ho appena costruito uno piccolo, però sto cercando un medico. E papà è andato e ha trovato il paese bellissimo, l'Uganda è un altopiano sui 1000 metri, quindi è sull'equatore, però è temperato dall'altitudine, sì, non c'è mai freddo, non c'è mai caldo, poi non è mai stata una colonia, era un protettorato, per cui l'ambiente, la gente, insomma papà si è trovato subito bene, ha deciso che questo era il posto per lui. E quanti anni aveva allora? Oddio, adesso mi fai fare la matematica, ops, lui è arrivato per il primo giro esplorativo nel 60, okay, ed era del 25. 35 anni, quindi sì. Esatto, okay. Ha trovato che andava bene per lui, lui cercava un posto dove con l'accordo col vescovo fin dall'inizio era stato: io non chiederò soldi alla missione, li troverò per conto mio, però in cambio voglio la possibilità di essere abbastanza autonomo per sviluppare l'ospedale secondo le mie idee. E il vescovo aveva accettato questo e l'accordo tra l'altro è rimasto verbale anche dopo questo vescovo fino a direi gli anni 90 quasi, andando sempre molto bene perché ha trovato dei vescovi uno dopo l'altro, sono stati veramente, gli altri erano ugandesi, sono stati molto, molto comprensivi e molto, hanno apprezzato questo modo di fare. E niente, deciso il posto, torna in Italia per preparare la prima spedizione di materiale, perché all'epoca c'era l'aeronautica militare italiana che faceva delle missioni umanitarie verso il Congo, che gli avevano promesso di portargli giù i primi lotti di attrezzature. Però tornando a casa riceve una cartolina dalla mamma che, essendo l'ultimo anno di specialità, poteva scegliere di farla fuori Canada, aveva tentato negli Stati Uniti, ma era sempre stata rifiutata, in alcuni casi addirittura c'era proprio segnato una donna, non se ne parla neanche, a fare il chirurgo, e aveva trovato a Parigi. E, però era arrivata in anticipo, si era fermata a Marsiglia a lavorare presso un chirurgo che conosceva, aveva guardato sulla cartina e con un'idea molto nordamericana delle distanze aveva detto: vabbè, sei qui vicino, se passi da queste parti vienimi a trovare. E lui che sta partendo perché sta preparando le cose e ha fatto la specialità in pediatria, in radiologia e in neuropsichiatria, però ahimè la chirurgia gli manca, e decide di andare a chiederle di venire a fare un paio di mesi in Uganda per far partire un po' la chirurgia. E tutti ovviamente mi dicono: no, ce l'aveva già in mente di farla rimanere. Beh, insomma, lei accetta, va giù, rimane qualche mese in più dei 2 mesi e poi lui le chiede di sposarla, e si sono sposati proprio lì nella cappella delle suore combognane dell'ospedale dove io sono nata e cresciuta un anno dopo, insomma. Che meraviglia, meraviglioso. Sì. E lei, insomma, che ricordi ha della sua infanzia? Ma io ho avuto un'infanzia bellissima, nel senso che all'epoca io sono nata un mese dopo l'indipendenza. L'indipendenza dell'Uganda è nel mese di ottobre del 62 e quindi ho vissuto quei primi anni in cui veramente il paese era completamente in pace, ereditava, diciamo, delle strutture, delle missioni, delle scuole, dell'impianto governativo che avevano messo in piedi gli inglesi. Per dire, c'era una grossissima comunità indiana che poi venne buttata fuori da Idi Amin, però all'epoca questa comunità indiana, molto abilissimi commercianti, permetteva di trovare tutto, cioè nel supermercatino di Gulu si trovava prodotti di importazione che andavano dalla frutta, che noi avevamo una marea di frutta esotica, però per esempio non c'erano le mele, non c'era l'uva, e si trovava che arrivavano dal Kenya, si trovava il cioccolato che arrivava dall'Inghilterra, insomma veramente si trovava tutto. E quelli erano anni in cui i miei genitori erano soli o con pochissimi altri medici, stavano sviluppando l'ospedale, lavorando come le bestie perché il lavoro era tanto e loro non pochi, insomma. Per cui mi ricordo un'infanzia in cui sono cresciuta praticamente in ospedale, perché la mamma poi era molto, molto canadese, per cui quando la tata non c'era mi portava con lei in ospedale, il che voleva dire 50 metri, perché la nostra casa sta a 50 metri dai primi padiglioni, tutti dentro nello stesso complesso, e mi sedeva sul letto dei pazienti, mettiamo il sabato o la domenica mattina quando non c'era la scuola o se la tata non c'era, oppure per terra nell'angolo della sala operatoria quando aveva bisogno di lavorare e non sapeva dove mettermi, insomma spesso mi lasciava dalle suore ma spesso mi portava in ospedale. E questo in qualche modo ha condizionato la sua di vita, aver visto sin da piccola insomma anche il dolore, comunque anche la capacità, la possibilità di risolverlo, questo dolore. Esatto, cioè l'importante, io sono fermamente convinta che i bambini bisogna esporli da piccolissimi alla vita, non bisogna proprio mai nascondere le robe brutte, perché se loro hanno sempre visto prima ancora di capire niente, e poi incominciano a capire cose che hanno sempre visto, ma sempre con il muro di protezione dei genitori alle spalle, però non davanti, alle spalle, uno si rende conto prima di tutto che questa è parte della vita. E secondo, che uno può fare, può aiutare. Mia mamma mi raccontava sempre che a un certo punto avevamo una gazzellina domestica che stava lì nel giardino di casa, e siamo andati via per un fine settimana. Lei spesso andava a operare in altri ospedali missionari vicini una volta a settimana e ogni tanto mi portava. E tornati, la gazzellina era morta e la mia tata l'aveva lasciata lì nel cortile. e la mamma gli ha detto: ma perché non l'hai tolta? Vedi che la Domenica adesso è triste, piange. E lei ha risposto: ma perché la morte fa parte della vita, e quindi i bambini devono da subito incominciare a rendersi conto che è parte della vita e non si può fare a meno di vederla, e poi capiterà anche a noi. Sì. Mia mamma aveva detto: caspita, ha ragione, come? Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Dall'8 al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. La prima volta. Il 1 maggio 1961 due medici atterrano a Kampala, capitale dell'Uganda, nel cuore dell'Africa subsahariana, allora protettorato inglese. Sono i coniugi Piero e Lucille Corti e con una robusta auto attraversano tutto il paese giungendo alla Chor, un villaggio a 11 km da Gulu, nel territorio della tribù Acholi. Si fermano a lavorare in un ospedale, gestito da alcune suore italiane comboniane, Lucille come chirurgo e Piero come anestesista, radiologo e amministratore. Intanto, il 17 novembre 1962, nasce la loro figlia Dominique. La guerriglia di Vampa e la dottoressa Lucille opera in centinaia di interventi di chirurgia di guerra e, tagliandosi accidentalmente con le schegge di ossa, contrae l'AIDS. A una giornalista che le chiede fino a quando pensa di restare in Uganda, Lucille risponde: Piero non può vivere senza l'ospedale, io non posso vivere senza Piero. Tiri le sue conclusioni. Questa dunque che vi abbiamo fatto sentire è la ricostruzione storica della famiglia Corti e anche di Dominique. Un'infanzia vissuta in Uganda all'interno di un ospedale, un'infanzia meravigliosa, come ci racconta la stessa Dominique. E questo mi ha fatto crescere in un ambiente dove veramente era un'infanzia beata proprio. Io vedo quando tornavo in Italia dalla mia famiglia, in Canada, dalla famiglia della mamma, e le prime volte mi sono resa conto che effettivamente i miei cugini non è che crescevano all'interno dell'ospedale. Dicevo: ma poveretti, mi sembrava che ce l'avevo io la vita più bella, insomma. Poi con questa eterna estate, ma non l'estate di qui caldissima, un'estate calda ma bella, la gente simpaticissima. Sono andata a scuola nella scuola locale ed ero l'unica bambina bianca in tutta la scuola, ma mai mi sono sentita trattare. Ovviamente io sapevo la lingua locale, so la lingua locale come prima lingua praticamente, per cui ero una di loro, certo molto diverso, sapevamo che noi eravamo diversissimi, perché io tornavo a casa e mi potevo permettere di giocare, di leggere, di andare in ospedale. Le mie compagne di classe tornavano a casa e già a 6-7 anni dovevano fare i mestieri, aiutare a cucinare, andare a prendere l'acqua al pozzo, al fiume, accudire i fratellini più piccoli, insomma, avevamo una vastità di differenza di mezzi e di possibilità impressionanti. Già da allora si capiva tra bambini, ma i giochi ero uguale a loro quando si giocava e si studiava, insomma. E quando è che ha deciso, quando è stata, diciamo, per ricalcare il titolo di questa trasmissione, la prima volta che ha detto: ora tocca a me, prendo io sulle spalle questo progetto? Dopo un periodo di ribellione, cioè io ho fatto tutta la mia vita fino a, diciamo, 15-16 anni a seguire la mia mamma in ospedale, e appena sono stata grande abbastanza a fare i primi mestierini, per cui, che ne so, sigillare i sacchi in sala operatoria, a quel punto pigliavo la pressione del paziente, sigillavo i sacchi prima che i sacchetti di plastica con dentro gli strumenti lavati, prima di metterli nella sterilizzatrice a gas, si dovevano sigillare nel sacchetto, e c'era questa cosa che li sigillava, mi divertivo moltissimo a far quel mestiere lì, e anche in ambulatorio eccetera, per cui man mano che diventavo grande la mamma mi insegnava le cose e facevo. E tutta la vita verteva su questo ospedale, cioè i pranzi, le colazioni, le cene, i dopo cena, le vacanze, era parlare di malati, parlare di casi, parlare di finanziamenti, parlare di organizzazione, di aiuti all'ospedale. Le vacanze erano correre perennemente a destra e a sinistra a cercare aiuti per l'ospedale. A tutto questo io ho partecipato perché ero trascinata a destra e a sinistra sempre. Poi finalmente a un certo punto ho detto adesso basta. E quindi non ho più voluto sapere, ho detto non ne posso più, faccio un'altra roba, e mi sono iscritta infatti a Lingue. E quindi ho fatto un anno di Lingue all'università, alla fine del quale mi sono detta ma io sono fuori di testa, e sono tornata sulla diritta via, perché effettivamente non era la mia vita, insomma, sapevo che era, insomma, in un certo senso era fare il medico. E allora mi sono iscritta a medicina, ho fatto medicina e lì è stata un'altra prima volta quando ho finito, perché lì ho dovuto toccare con mano che l'ospedale ormai era grande, i medici erano tutti ugandesi. Certo, di un altro medico ci sarebbe stato anche bisogno, perché per quanto noi giù siamo considerati fortunati, l'ospedale è grossissimo, con tanti specialisti, eccetera, eccetera, rispetto a qua fa ridere, nel senso che è un bisogno disperato di altro personale. Però già dall'epoca si capiva che la cosa di cui l'ospedale aveva veramente disperatamente bisogno, molto più di un medico in più, era che si sviluppassero queste due fondazioni che i miei avevano costituito, una a Milano e una a Montreal, per aiutare l'ospedale, perché eravamo nel mezzo di quello che sembrava una guerra senza possibilità di termine, perché entrambi i miei genitori sono morti in momenti di guerriglia, tra l'altro ferocissimi tutte e due. La mamma è morta nel 96, il papà nel 2003, e soprattutto con la mamma veramente c'avevamo si sparavano, avevamo i soldati da una parte e i ribelli dall'altra dell'ospedale, si sparavano mandandosi i mortai al di sopra dell'ospedale, qualcuno persino è caduto dentro, per fortuna senza creare danni, e quindi era ovvio che la popolazione, che era sempre più disperata, sempre più povera, sfollata in campi profughi, incapace di potersi coltivare i propri campi, eccetera, se si voleva continuare a mandare avanti l'ospedale per poter fornire cura ai pazienti, l'ospedale aveva bisogno di fondi che non poteva trovare lì. E quindi buttarsi anima e corpo in questa fondazione, quella italiana, perché in realtà questo ospedale è una storia italiana, fino a poco tempo fa è stato sviluppato, creato, chi ci ha lavorato i primi 20 anni sono stati proprio medici italiani, e l'aiuto è stato aiuto italiano, per cui è stato un tutt'uno rendersi conto che l'ospedale, se io volevo veramente fare quello di cui aveva bisogno, non era tanto andare giù a fare il medico, ma buttarmi in queste fondazioni per cercare di fornire finanziamenti, cercare di creare qualcosa che potesse fornire un finanziamento stabile all'ospedale. E nell'ottica del passaggio di consegne anche della direzione, dal mio papà, al dottor Bruno Corrado, che poi l'ha seguito, e ai medici ugandesi, averci anche un'organizzazione che aveva la possibilità di cercare di fare rete per trovare quelle competenze tecniche, di organizzazione, eccetera, di cui c'è bisogno, ormai è una struttura grande e complessa e là non ci sono, e allora poterle trovare da qui, perché era un conto un direttore bianco da là che cerca l'aiuto anche di competenze a casa sua, nel paese di origine, ma per un medico ugandese andare a farsi una rete in Italia è molto più complicato. E quindi è questo che abbiamo fatto, insomma, io e i colleghi che a poco mi hanno affiancato, è quello che facciamo tuttora, di cercare aiuti, nel senso fondi, assistenza logistica e competenze che sono necessarie all'ospedale. E c'è un modo per sostenervi? C'è un modo che anche noi possiamo diramare, insomma, a chi ci ascolta? Certo, in questo momento abbiamo una campagna SMS che è stata attivata qualche giorno fa e sarà attiva fino al 7 maggio e si può chiamare al 45501 e ci arrivano con ogni SMS circa 2 euro e con ogni chiamata da fisso 5 euro che vengono donati alla fondazione, per cui è un modo molto semplice, molto rapido per darci un aiuto per il quale saremo estremamente grati, perché veramente è un aiuto importante per una struttura che è molto importante, è veramente un punto di riferimento per il Nord Uganda. Pensate che ci sono delle certe cure che noi offriamo che non si trovano in nessun'altra parte di tutto il nord del paese. Un paziente nostro dovrebbe andare giù alla capitale, all'ospedale universitario, ma per loro è un viaggio lunghissimo, costosissimo, un altro popolo, un'altra lingua, per cui il 99% dei nostri pazienti, se gli dici devi andare giù all'ospedale universitario, è l'unico posto dove ti possono curare, torna al villaggio e aspetta di morire, insomma, perché non se lo può permettere. La prima volta termina qui. Se volete potete riascoltarci in podcast, venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio24 La prima volta. Buona serata a tutti e buon inizio di settimana da Cristina Carpinelli.